Ecco, sui monti, i piedi di chi proclama salvezza. Celebra, Giuda, le tue feste, sciogli i tuoi voti. Non ritornerà mai più lo scellerato a passare attraverso te, è del tutto annientato. Il Signore restaura la vigna di Giacobbe e la vigna di Israele. I ladri li avevano depredati e ne avevano distrutto i sarmenti. Sale contro di te un devastatore. Monta la guardia sullo spalto, sorveglia il cammino, stringiti i fianchi, raccogli tutte le forze. Lo scudo dei suoi prodi è fiammeggiante, i suoi valorosi sono vestiti di scarlatto. Per la lucentezza dei ferri splendono i carri. Nel giorno dell'attacco i cavalieri si agitano. Per le strade sfrecciano i carri, corrono alla rinfusa nelle piazze. A vederli sono come fiaccole, come folgori guizzano qua e là. Egli richiama le sue truppe scelte fino a spossarle durante la marcia. Si slanciano contro la sua cinta, il riparo è già sul posto, la copertura di scudi è già formata. Le porte sul fiume si spalancano, è in subbuglio il palazzo, si rimuove, emigra la signora e le sue ancelle gemono, come un gemere di colombe, gemono sopra il loro petto. Ninive è come un serbatoio d'acqua, le cui acque scorrono via. Fermatevi, fermatevi, ma nessuno torna indietro. Depredate argento, depredate oro, i tesori sono infiniti. Impadronitevi delle ricchezze, d'ogni oggetto prezioso, predaggio, saccheggio, rapina. Il cuore vien meno, le ginocchia vacillano. Lo spavento è in tutti i reni e tutti i volti si scolorano. Dov'è il covo dei leoni e la caverna dei leoncini? Il leone parte, resta la leonessa, con i leoncini, senza essere molestati. Il leone sbrana per i suoi cuccioli, squarta per le sue leonesse, riempie di preda le sue tane e le sue caverne di animali sbranati. Ecco, a te, dice il Signore degli eserciti, ridurrò in fumo i tuoi carri, e i tuoi piccoli li divorerà la spada. Farò scomparire dalla terra le tue rapine, né più si udrà la voce dei tuoi massacri.